La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Un saluto e ben ritrovati alla Rosa Purpurea, l'ora di cinema settimanale qui a Radio 24. Rush finale per il film di Natale, con 5 nuove pellicole dalle grandi ambizioni, tra cui due dominatori assoluti, storici del botteghino natalizio come De Sica e Pieraccioni, e tanta animazione. Allora silenzio in sala e titoli di testa. Lui è Marilyn. Leonardo Pieraccioni alla Rosa Purpurea parla del suo rapporto con la diva immortale, riesumata per il suo nuovo film. Si tagli il cinepanettone. Quest'anno il Natale è a Beverly Hills, garantisce Christian De Sica. Un po' Pinocchio, un po' Peter Pan. Per la prima volta al cinema Astro Boy, il classico dei classici degli anime giapponesi, con la voce di Silvio Muccino. Quando ebrei e musulmani vivevano fianco a fianco, il canto delle spose è la proposta più originale e alternativa del Natale 2009. E non è stato facile scegliere il film della settimana, che è poi, come chi ci ascolta sa, il consiglio di qualità, diciamo, della Rosa Purpurea, perché per il momento questo è un Natale anomalo. Manca il filmone americano, doveva essere Avatar sulla carta, ma poi è stato rimandato a gennaio, e così i distributori si sono fatti prudenti, e ora in sala manca una grande storia con attori veri in carne e ossa, quelli importanti che la gente ama e in cui si riconosce. E invece tanto 3D, forse anche troppo, a dominare il Natale. Così noi, un po' controcorrente, apriamo la trasmissione con Il canto delle spose, elogio dell'amicizia e della tolleranza in chiave femminile, ambientato nella Tunisia occupata dai nazisti negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Come dire, se la grande industria cinematografica si fa sempre più virtuale, la nostra vita ce la racconterà sempre di più il cinema d'autore. Chi vuole una religione diversa dall'Islam non vedrà mai accettato il suo culto, e nell'altra vita sarà tra i perdenti. È stata Miriam a dirti di leggere questa parte? No, ci sono capitata per caso. Allora leggi con me. In verità, coloro che credono, siano essi giudei, nazareni o sabei, e tutti coloro che credono in Allah e nell'ultimo giorno e compiono il bene, riceveranno il compenso dal loro Signore. Non avranno nulla da temere e non saranno afflitti. Tunisi, 1942, un modesto quartiere della Casbah dove due ragazze, amiche d'infanzia, dividono la stessa casa, le stesse passioni. Due ragazze diverse, una ebrea, l'altra musulmana, ma il dettaglio ancora non è vissuto come un problema. Da una parte c'è Nour, la musulmana, che vorrebbe andare a scuola come Miriam, l'ebrea, la quale invece sogna l'amore e invidia a Nour le storie romantiche con Khaled, che l'amica le racconta giorno per giorno. E il luogo delle confidenze e della convivenza non può che essere la mamma. Mia madre mi fa impazzire. Anche la mia. Senti, è da un anno che te lo voglio chiedere, ma non ho avuto il coraggio. Forza, chiedi. Perché tua madre ha perso il lavoro? È stata licenziata dai francesi. E perché? Non lo so, non ci vogliono più. Come avete sentito, la storia, quella con la S maiuscola, sta per irrompere su quel clima di armonia e convivenza civile. Nel novembre del 42 le forze tedesche entrano a Tunisi ed essere ebrei diventa un problema. La madre di Miriam perde il diritto al lavoro e, per dare un futuro alla figlia, la promette in sposa a un ricco e maturo medico, che ovviamente Miriam non ama. E mentre i suoi sogni d'amore vanno in frantumi, la guerra e l'intolleranza fanno breccia anche nel cuore delle due amiche, che cominciano a guardarsi con occhi diversi, sostituendo la rabbia alla comprensione, l'intransigenza alla ragione. Voi ebrei, voi ci rubate le nostre ricchezze, il nostro lavoro. Perché tu vai a scuola e io non ci posso andare? Perché io porto il velo e tu non lo porti? Perché tu puoi uscire senza essere criticata? E io devo sempre sentirmi dire qualcosa. Perché io non posso uscire? Eh? Perché? Comunque, tu non c'entri niente con la politica. Tu sei diversa. No, non sono diversa. Brisbane, Ci voleva uno sguardo femminile per raccontare questa storia. Solo una donna poteva descrivere con questa delicatezza, così dal di dentro, l'amicizia fra due anime e fra due corpi, come fiori pronti a sbocciare, ad aprirsi alla vita, i cui petali però vengono piegati e rinchiusi dall'incombere della guerra, dell'odio, delle barriere religiose cui l'uomo ricorre quando si sente in pericolo. Karine Albou, regista francese di origini maghrebine, che interpreta anche il ruolo della madre di Miriam, riesce nel tentativo, pur fra qualche compiacimento estetico di troppo, regalandoci, anche grazie a un attento lavoro sul sonoro, un raffinato affresco su un frammento di storia misconosciuto. Un consiglio: il film esce in sole 11 copie, ma è presente nelle principali città italiane, da Roma a Milano, da Torino a Bologna. Non ha divieti, ma per la delicatezza di alcune situazioni è consigliabile a un pubblico dai 14-15 anni in su. E questo è il film della settimana, la scelta di qualità della Rosa Purpurea, Il canto delle spose. Fra poco parleremo di film che riempiranno le sale, parleremo con Leonardo Pieraccioni, poi con Christian De Sica. Prima però vediamo come sono andate le cose al botteghino la scorsa settimana. È partito male il viaggio nelle sale italiane di Jennifer's Body, solamente 250.000 euro di incasso, ottavo posto. Poi andiamo ancora più su in classifica per andare a trovare al quarto posto A Serious Man dei fratelli Coen, al terzo Dorian Gray di Oliver Parker, al secondo Cado dalle nubi di Checco Zalone, che ha superato, non è di Checco Zalone, è con Checco Zalone, perché il regista è Gennaro Nunziante, e ancora Christmas Carol, che continua a mantenere il primo posto in classifica con un totale ormai vicino ai 9 milioni di euro. Non ci sono new entry nelle prime 5 posizioni, questo perché tutti aspettavano i film di questa settimana. La Rosa Purpurea. Chi vogliamo chiamare? Chiamiamo la donna più bella del mondo. E chi è? Chiamiamo Marilyn Monroe. Sì! Chi c'è? Ragazzi, siete voi? Ferma lì! In caso ci fai? Chi tu sei? Sono Marilyn. Bye bye, baby. Remember, you're my baby. L'immortale Marilyn Monroe, che diventa protagonista di un film di Leonardo Pieraccioni. Chissà, forse non se lo sarebbe mai aspettato, la biondissima e platinata star. Ma appunto Leonardo Pieraccioni la riesuma per questo suo nuovo film Io e Marilyn nelle sale italiane da questo fine settimana. La storia di un riparatore di piscine, sempre improbabili mestieri che fanno i protagonisti di Pieraccioni, che si chiama Gualtiero Marchesi, tra l'altro, come il cuoco, che ha un problema sentimentale durante una cena che finisce in seduta spiritica con i suoi amici, che sono il solito clan di Pieraccioni, da Ceccherini in poi. Ebbene, rievoca appunto, come avete sentito, Marilyn Monroe. Il bello è che Marilyn Monroe si materializza e diventa l'amica immaginaria che dovrebbe dispensare consigli d'amore per riconquistare la compagna del buon Gualtiero. Ascoltiamo un'altra clip. Il professore mi ha detto che siete tutte persone molto serie. Io c'ho a casa Marilyn Monroe. Ma volete sapere chi ci aveva in macchina? Sì. La grande Marilyn Monroe. È pericoloso? Abbastanza. Te a casa chi ci avevi? Adolf Hitler. E alla Rosa Purpurea è venuto a trovarci Leonardo Pieraccioni per parlare del suo nuovo film Io e Marilyn. Ciao Leonardo. Ciao a tutti, un bacio. Senti, Leonardo, parliamo subito un po' dell'idea di questo film. Ci aveva provato qualche anno fa Woody Allen, ricorderai, con Humphrey Bogart, Amico immaginario, in Provaci ancora Sam. Più recentemente nelle sale Ken Loach con Eric Cantona. Tu ti sei scelto Marilyn, diciamo che sicuramente cadi sul morbido, ma c'è proprio bisogno eventualmente di un amico immaginario, insomma, per potersi svelare ed essere se stessi. Ma sicuramente, perché poi è quello che tu ti crei nella testa, per cui te la canti e te la suoni. E il mio Gualtiero Marchesi, che si chiama il personaggio come il grande cuoco, ma non è il cuoco, gli arriva veramente questo ciclone di simpatia, di bellezza e di sensualità. Ma chiaramente è una cosa che, come gli spiega subito lo psichiatra interpretato da Francesco Guccini, è una cosa che si è creato sicuramente anche tramite la sua suggestione. In questo caso però la buona Marilyn gli farà un po' da Cyrano de Bergerac, in quanto si accorgerà che nella sua vita c'è delle cose da rimettere a posto, un ex matrimonio, una figlia che vorrebbe che i due si rimettessero insieme, e gli dà dei consigli. Però te lo sai meglio di me, Marilyn Monroe era meravigliosa in tutto fuorché nel dare consigli d'amore, perché la sua vita sentimentale è stata come la carriera dell'italiano di Aldo Biscardi. Cosa ha rappresentato e cosa rappresentava Marilyn Monroe per il giovane Leonardo Pieraccioni? Ma rappresentava all'inizio, quando ero piccolino, quasi un fumetto, uno dei migliori fumetti, perché con quella vocetta, quel biondo platino, quei vestiti anni 50, era meravigliosa. Quando poi sono cresciuto mi sono accorto della grande sensualità e delle due cose che fanno di una donna un mito, cioè la sensualità e la simpatia totale. Marilyn Monroe era veramente ed è rimane l'unico vero mito che ci sarà anche tra altri 50 anni. Come hai scelto invece la tua Marilyn? Ma nella maniera più semplice, digitando su Google sosia Marilyn Monroe. Se adesso qualcuno lo fa, si accorgerà che le foto che si aprono nel computer sono quasi tutte quelle di Susie Kennedy, che è la sosia, diciamo, ufficiale. Io non la considero neanche una sosia, penso che sia una sorta di clone. Credo che viva con la pecora Dolly a casa, perché è veramente imbarazzante la rassomiglianza. E l'abbiamo cercata, lei vive facendo Marilyn Monroe, per cui la cosa divertente è che l'abbiamo dovuta trattare come una vera diva, perché il suo agente ci diceva che era 4 giorni in Giappone, poi tornava, andava a Denver per altri 4, e che forse a fine marzo si sarebbe potuta da noi incontrare. Per cui è buffo anche il fatto che la Susie viva una sorta di transfert, per cui parli e pensi come Marilyn Monroe. Senti Leonardo, il cast vede amici ormai più che attori, come Massimo, come Biagio, però mi sembra che il tuo tocco questa volta sia un po' più da commedia brillante prima ancora che da film comico, è così? Beh sì, è una commedia sicuramente sentimentale, al di là della parte comica, appunto, dove, come hai detto te, Rocco Papaleo, Ceccherini, Luca Laurenti, Biagio Izzo, Francesco Pannofino fanno proprio la parte da leone, c'è anche una sottotraccia anche più malinconica, che se ci pensi bene è un po' la figura di Marilyn Monroe. Marilyn Monroe non evoca mai in tutti noi soltanto le cose che ho detto finora, cioè la sensualità, la simpatia, la grande bravura. E evoca anche un po' di struggimento, è la diva più struggente che ci sia, per cui anche nel film si affrontano anche questi temi, che sono per esempio delle mie convinzioni: le persone che non ci sono più non possono più manifestarsi se non continuando a vivere nel nostro cuore e nella nostra mente, e questo film è dedicato anche a tutti quelli che la pensano come me. Grazie Leonardo Pieraccioni alla Rosa Purpurea. Un abbraccio a tutti voi, un bacio. E Leonardo Pieraccioni quindi ci ha raccontato la sua Marilyn. Io e Marilyn ha lanciato la volata di questo Natale delle commedie dei comici, poi più tardi parleremo anche di Natale a Beverly Hills. Prima però apriamo la prima parentesi sul DVD game, come sempre 3 tracce di un film misterioso almeno fino a quando voi non avrete indovinato di che film si tratta, e il più bravo e veloce del sabato e della domenica riceveranno a casa il DVD, rispondendo appunto e individuando di quale film si tratta. Ascoltiamo la prima clip. Beh, temo che non ci sia molto da vedere. In un certo senso mi sto tenendo agli schemi minimalisti. Potresti usare degli scaffali? Ah sì, credi? Non lo so. Sono tutti i libri che ho preso in biblioteca. Allora, l'indirizzo di posta elettronica è il solito, larosapurpurea@radio24.it. Se l'avete già indovinato siete davvero molto molto bravi, ma più tardi ci saranno un altro paio di possibilità. E cambiamo nuovamente argomento, voltiamo pagina perché c'è un altro film di cui parlare, come abbiamo detto 5 nuove uscite in questo fine settimana, cominciamo ad addentrarci nelle proposte di animazione che sono sempre più copiose ormai da mesi a questa parte, ma soprattutto sotto Natale, però questa fa un po' specie in questo momento, perché mentre impera il 3D, gli occhialini, tutto ciò che può dare quella sensazione di grande presenza allo spettatore, la Disney risponde con un prodotto vecchia maniera, un prodotto prodotto assolutamente bidimensionale, una storia che potremmo definire un po' all'antica, ma di quelle che continuano sempre a piacere. Come dire, non ha dimenticato le sue tradizioni e le sue origini. Il colosso americano, il film si intitola La principessa e il ranocchio, lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. The evening star is shining bright, so make a wish and hold on tight. C'erano una volta una principessa e un ranocchio, direte voi. Non è così. C'erano due ragazze nella New Orleans anni 20. Una sognava il principe azzurro, il sogno dell'altra era invece aprire un ristorante. E la nostra eroina è proprio lei, la giovane Tiana, la prima principessa afroamericana di casa Disney. Per caso, durante un ballo, si troverà a incontrare un ranocchio. Che c'è? Vorresti un bacio? Baciarsi sarebbe carino. Io sono il principe Naveen. Tu devi baciarmi. Come, scusa? Uno stregone mi ha fatto un incantesimo. Ti prego, così tornerò umano. Tiana però non spezza l'incantesimo, diventa anche lei una rana e qui comincia l'avventura. Hai dato ascolto all'uomo ombra? È un tipo molto convincente. Lungo il loro cammino le rane incontreranno amici pronti a portare aiuto, il coccodrillo trombettista Louis e una luminosissima lucciola, e impareranno che il vero amore va al di là delle classi sociali e i sogni veri si realizzano lavorando sodo. L'unica cosa che conta è quello che c'è sotto la pelle. La Disney torna ai cartoni classici, niente computer, niente 3D. I registi di Aladdin e della Sirenetta disegnano i personaggi che popolano New Orleans, disegno che rende meglio delle moderne magie digitalizzate le espressioni dei personaggi e anche le loro movenze, il tutto accompagnato dalla musica. Di principesse e ranocchi è piena la storia del cinema, non solo in casa Disney. Classiche e moderne, timide e intraprendenti, dalla Bella Addormentata alla Bella e la Bestia, da Cenerentola a Jasmine che fa innamorare Aladdin, da Romy Schneider Sissi a Audrey Hepburn in Vacanze Romane, fino a Fiona, amata dall'orco Shrek, e più che mai ribelle, come la giovane Tiana, pronta a lottare per il suo sogno e già entrata nel cuore dei piccoli spettatori insieme al suo ranocchio. Sì, è bellissimo, mi è piaciuto perché ci sono dei ranocchi che diventano uomo e c'è della magia. Cosa ti è piaciuto del film? È un po' d'avventura e poi mi è piaciuta tanto la lucciolina piccola. Quando si sono baciati. Il ranocchio. Tutta la storia mi è piaciuta. Questa storia nuova che ci sono sti due personaggi e la storia vera. Cosa ti è piaciuto? La principessa e il ranocchio. Piccoli critici crescono, potremmo dire, grazie a Chiara Pizzimenti, che è ormai la nostra specialista in film per bambini. Insomma, ma come vedete è una produzione ormai sempre sempre più presente. La rosa purpurea. Amore, siamo arrivati a San Bart con quella bella Arietta Salmastra. Mi sentirò subito il tuo mandrillone. Germano, ma che ci fai tu qui a Los Angeles? Carlo, mi devi tenere in gioco con la mia famiglia. Ma non so, morto. Ma quale rimorchiare? Mi devo sposare. Ma proprio non ti riesce di chiamarmi papà. Ali Brando, io ti voglio bene. Ma papà è difficile. E invece Ali Brando è facile. Quest'anno il Natale è a Beverly Hills e ne parliamo con Christian De Sica, collegato qui con la Rosa Purpurea. Ciao Christian, ciao. Non sei a Beverly Hills, vero? No, sono a Roma ancora. Allora, Christian, è un film. Adesso io stavo cercando di riordinare le idee un po' per raccontare qualche elemento della trama, ma è praticamente impossibile perché succedono tante di quelle cose che davvero ci si perde. Però diciamo grazie che a Dio si ride, l'importante è che si rida. Tra poi drammaturgicamente non stiamo lì a perdere troppo tempo, però no, infatti. Ci sono sempre quei 10-15 minuti esilaranti e poi degli attori capaci di fare questo genere di film, che credo forse uno dei più difficili. Beh, diciamo che il cast di anno in anno, diciamo, cresce per importanza e anche per familiarità. Quanto conta il gruppo in questo film, in questo tipo di film? Beh, ma soprattutto in questo episodio, che è composto da Sabrina Ferilli, Massimo Ghini, diciamo che poi sono amici storici delle new entry come Gasbare e Tognazzi, che fa un altro episodio. E io mi sono trovato molto bene in passato con Ghini, ma quest'anno è stata una piacevole scoperta Sabrina Ferilli, non più solo sex symbol, ma veramente una un'attrice comica di prima grandezza, con dei tempi rari, comici rari per una bella, perché di solito le belle non fanno ridere, sono le brutte che fanno ridere, invece lei è una bella che fa ridere. Quindi insomma speriamo che ci si apra la possibilità di poter fare dei film in coppia ancora in futuro. Christian, quest'anno dicevamo Natale è a Beverly Hills, voi ogni anno, come tutti sanno, cambiate location. Che tipo di attrattiva ha oggi secondo te Beverly Hills? Ma io guarda, io penso che prima viene, si buttano giù le idee del film, che possono essere ambientate sia in un posto che in un altro, e poi è il produttore che sceglie la location a secondo delle mode che respira nell'aria. E certo, il mondo di Hollywood, chiaramente Beverly Hills ormai sai, esce fuori dagli occhi, voglio dire, noi italiani con tutti i telefilm e i film che sono stati fatti, però nell'immaginario collettivo insomma è sempre il posto dei grandi negozi, del lusso, delle belle donne, del mare, dei divi di Hollywood, delle prime. Quindi sai, noi raccontiamo in farsa delle favole, voglio dire, nei momenti di crisi come quello che attraversa il nostro paese e poi tutto il mondo, hanno sempre un grosso successo i comici e i film leggeri, e quindi anche i film che fanno sognare. Noi con Natale a Beverly Hills raccontiamo ha detto una cosa Alessandro Casma che mi ha divertito: vorrei che il nostro paese vivesse in questo momento come si vive nei film di Natale, perché un pochino è quello. Ma sai, non c'è cosa di maggior soddisfazione per uno che fa il mio mestiere, regalare 1 ora e 40 di risate in un momento come questo. Senti, infatti molto spesso le vostre location sono in antitesi con il clima che si respira nella società, cioè sono luoghi a cui la gente aspira più che luoghi reali dove la gente ci si può ritrovare. Ma sai, soprattutto ci si diverte, vedi, voglio dire, poi il luogo sì, è importante, far vedere dei bei posti a persone che magari non si possono permettere di fare certi viaggi per mancanza di denaro, per mancanza di tempo, per mancanza di voglia, perché poi voglio dire, noi andiamo a fare queste vacanze, ma quando noi le andiamo a fare sempre fuori stagione, quindi facciamo vedere che c'è il sole ma magari fa freddo. Gli alberghi sono meravigliosi ma sono chiusi, quindi noi entriamo dalle porte di servizio, non è che noi facciamo una finta vacanza, però la facciamo sembrare divertentissima, e questo è l'importante. Senti, ci sono due filoni principali, due storte di racconti paralleli nel film quest'anno, che forse si incrociano ancora meno delle altre volte. Ecco, questo che tipo di scelta è stata? Come la puoi spiegare? Ma è una scelta del produttore di De Laurentiis, ultimamente ha voluto fare sempre due storie, una diciamo meno giovane e una più giovane, una con gli attori dedicata a un pubblico più giovanile e l'altra invece a un pubblico della mia età. Però secondo me oggi come oggi bisognerebbe ritornare alla storia unica, sarebbe meglio, e magari anche con meno dispendio di attori, perché sai, quando poi ce ne sono tanti viene tutto frazionato e quindi è anche più complesso, più difficile per gli autori e il regista che devono andare a raccontare tanti tanti personaggi. Senti, una battuta, Leonardo Pieraccioni per la battaglia di Natale si è scelto un'attrice mica da niente, Marilyn Monroe. tu come rispondi? Con Michel Hunziker? Io rispondo con Sabrina Ferilli e Michel Hunziker, che non mi sembra che sono messo tanto male per quanto riguarda l'Italia. Certo, Marilyn, però insomma sono già contento perché già mi sono arrivati i risultati, ho visto che Sabrina e Michel vanno alla grande. Mi sembra che questo tra l'altro può essere, Christian, un Natale all'insegna della grande commedia italiana, perché voi, vabbè, non avete mai avuto problemi di pubblico e neanche Leonardo, però quest'anno manca un po' forse il filmone americano, al di là di tanta animazione, il fatto che Avatar è andato spostato in avanti di un mese. Ma sai, guarda, voglio dire che Chris Bascaro mica scherza, voglio dire, gli americani, poi tu devi capire che noi andiamo in competizione con dei film che costano 100-200 milioni di dollari e noi invece facciamo i film con due fili di ferro e un pezzettino di legno, quindi però il biglietto costa uguale. Avatar no, perché sarà in 3D e quindi quando è in 3D costa qualche euro di più, però voglio dire, noi riusciamo a fare degli incassi, a stanare, come si dice, la volpe della tana con dei film che costano un decimo di quelli americani. e quindi insomma questo non è merito solo di noi attori o del regista, ma è anche della produzione, soprattutto della distribuzione, che riesce a essere così profonda nell'esercizio italiano. Quindi insomma è una bella soddisfazione. Speriamo di ripetere il successo dell'anno passato, anche perché poi insomma questo così bistrattato film di Natale dall'intelligenza, anche voglio dire spesso giustamente, perché c'è drammaturgicamente, o se c'è qualche leggerezza, sì, è vero, però grazie a questo film ci arriva tanta notorietà, tanto amore da parte del pubblico, tanto lavoro per tante persone, soprattutto nell'ambiente, e poi dà la possibilità a tutti noi, compreso gli autori, di poter poi fare delle scelte magari artisticamente più severe, fare del teatro, provare con questo denaro a finanziare dei giovani, a fare delle opere prime, insomma, quindi voglio dire che ben venga il cinepanettone. Assolutamente, allora in attesa del cinepanettone in 3D, chissà che magari un domani non succeda, noi salutiamo Christian De Sica qui alla Rosa Purpurea. Ma grazie a voi, tanti auguri e buon Natale a Beverly Hills, mi raccomando. Grazie a Christian De Sica, nostro ospite qui alla Rosa Purpurea per Natale a Beverly Hills. Insomma, la volata è partita e quindi per 15 giorni, 20 giorni i film di Natale sono tutti a disposizione, soprattutto queste due commedie italiane per quanto riguarda il box office. Noi a questo punto giochiamo ancora insieme, seconda traccia misteriosa del DVD Game di oggi. Mentire è come essere alcolizzati, cerchi sempre di smettere, ma... Allora è così? Mentivi? Questa era una parte del problema. La Rosa Purpurea @radio24.it, l'indirizzo di posta elettronica se avete indovinato di che film si tratta. Più tardi un'altra possibilità. E a questo punto noi passiamo a parlare di un'altra proposta, l'ultima, la quinta, non certo per ordine di importanza o di qualità, ma insomma ci siamo voluti sempre alternare qui alla Rosa Purpurea tra un film di grande richiamo popolare e qualcosa di un po' più di nicchia. Qui siamo di fronte a un film di animazione, un'altra proposta animata. Nel 1952 è un manga, nel 1963 è il primo anime, ovvero una serie animata per la TV, la mano è la stessa, quella di Osamu Tezuka, maestro dell'animazione giapponese. Il personaggio è quello di Astro Boy, il robottino creato da uno scienziato, il professor Tenma, sulle sembianze del figlio tragicamente scomparso, che ora diventa un film. In questo weekend in quasi 200 cinema italiani c'è aria di Pinocchio, con Lodi forse dovrebbe chiedere le royalties. Bene, bene. Si chiama Astro, lui viene da Metro City. Metro City, wow, ho lavorato lì tanto tempo fa. Davvero? Perché gestisco una fetida carrozzeria per corpi qui quando potrei creare robot all'ultimo grido a Metro City? Beh, no, non intendevo. Calma, figliolo, siamo una famiglia, noi ci è permesso di fare domande. La risposta è... adoro i robot, specialmente quelli scartati. Più sono ammaccati, più sono distrutti, più mi piace poterli rimettere in piedi. Metro City, quindi, una città futuristica, galleggiante, che si è staccata dalla crosta terrestre ed è sospesa lassù come un dirigibile. Lì vivono quelli ricchi e per bene, mentre sulla superficie, ovvero la Terra, sono rimasti orfani, diseredati e robot da rottamare. Il professor Tenma è uno scienziato brillante. Il suo problema è che il presidente ultramilitarista di Metro City lo tiene sotto scacco e vorrebbe utilizzare l'energia buona che anima il cuore di Astro Boy per fini repressivi. Quindi il presidente lancia i suoi sgherri all'inseguimento di Astro Boy, e Astro Boy ripara sulla superficie all'inseguimento di se stesso, robot dall'animo umano. Incontrerà personaggi bizzarri, bambini veri con cui stringerà sincera amicizia, e persino tre robot comunisti che inneggiano alla roboluzione, e nel loro sgangherato quartier generale hanno appesi i poster di Leni, Trotsky e Bruce Lee. Non temere, amico, sei in salvo. Sei stato salvato da il fronte rivoluzionario robot. Io sono Sparks, il cervello. E io sono Robotsky, il muscolo. E io sono Mike, il frigo. Sono il frigo. Adesso sei liberato. Coraggio, compagno. Fai il tuo primo passo da robot libero. Fallo, fallo. Sembra diverso, vero? Sembra più bagnato. E queste erano le voci del trio Medusa, che appunto anima i robot rivoluzionari. Dirige David Bowers, animatore americano indipendente, ma già affermato, aveva firmato il divertente Giù per il tubo, lo ricorderete, che contestualizza in senso politicamente impegnato e pacifista il personaggio originale di Tezuka. Pur non rinunciando a un'estetica orientale, Bowers promuove un'attualizzazione del personaggio di Astro Boy, rendendolo più vicino ai ragazzi di oggi. Ma il centro del film è la ricerca di se stessi. Fra battaglie campali e riflessioni sulla propria natura, Astro Boy salverà il mondo solo accettandosi per quel che è. Particolarmente azzeccati i personaggi secondari, come il gigantesco Zug, il robot di Ghisa ormai in disuso, o Cora, l'amica umana di Astro Boy, che nella versione italiana ha la voce di Carolina Crescentini, un po' troppo adulta forse per l'età del personaggio. Meglio invece Silvio Muccino, che dà la voce ad Astro Boy e racconta così la sua esperienza. Rincorrevo da tempo l'idea di fare un cartone animato per loro, portare i miei nipoti al cinema a fargli vedere lo zio che diventava per quell'ora e mezza, il loro eroe. E quindi, insomma, quando è arrivata l'occasione di Astro Boy, l'ho colta al volo perché mi sembrava forse l'occasione migliore. Astro Boy è un bambino di una dolcezza. Innanzitutto Astro Boy è la quintessenza di tutti i miei eroi che hanno costellato la mia infanzia. Io sono cresciuto con Pinocchio, sono cresciuto con Peter Pan, sono cresciuto con le storie di Oliver Twist. E Astro Boy è tutto. Astro Boy è un Pinocchio che però vola come Peter Pan, ha una innocenza e un cuore enorme, però è un bambino, però ha il coraggio di un eroe. Insomma, io in questo momento sto come regredendo ai miei 6 anni e sto vivendo un sogno. Quarta parte della Rosa Purpurea, trasferiamo il grande schermo in casa nostra e cominciamo ad andare a vedere quello che succederà la prossima settimana nelle TV in chiaro e quindi gratuite. Quali sono i film che si possono recuperare, vedere, rivedere, videoregistrare per accrescere la propria cultura cinematografica? Come sempre lo facciamo con Film TV. Qual è il consiglio, Claudio Bartolini? Ciao Franco, ciao a tutti. Questa settimana andiamo a presentare Tenebre, che verrà proiettato mercoledì 23 dicembre su RaiSat Cinema alle 22:40. Il film di Dario Argento segue i primi thriller e costituisce un po' un anello di congiunzione tra la sua prima cinematografia, per l'appunto thriller, e quella di impronta horror che seguirà. È la storia di uno scrittore di successo che viene a contatto con un serial killer che si ispira nei suoi omicidi proprio ai libri di quest'ultimo. Un'altra cosa interessante che contraddistingue questa messa in onda è il canale, appunto RaiSat Cinema, che è un canale che in origine era satellitare e ora invece è arrivato ad essere un digitale terrestre free, ossia gratuito. Il punto qual è? Che è visibile soltanto in quelle regioni nelle quali è già avvenuto il cosiddetto switch off, ossia è già stato liberalizzato il digitale terrestre e con appositi televisori predisposti ad accogliere il digitale terrestre o con opportuni spoiler, è possibile appunto vedere questi tipi di canali. Nelle altre regioni dove non è avvenuto lo switch off, non è ancora possibile guardare RaiSat Cinema, ma lo sarà presto, diciamo, le regioni seguiranno a ruota un po' quel primo esempio che era stato la Sardegna, che ora ha coinvolto anche il Lazio, la Campania e via dicendo. E allora grazie a Claudio Bartolini di Film TV per averci consigliato e anche aiutato un po' a capire bene questa questione di RaiSat Cinema, che è un canale molto importante, un canale di grande qualità cinematografica, quindi importante averlo riacquisito, diciamo così, al cinema in chiaro, appunto al digitale terrestre. Il consiglio, però, non perdiamolo di vista, era Tenebre di Dario Argento, mercoledì alle 22:40 proprio su RaiSat Cinema. E a questo punto noi andiamo nuovamente a giocare con la terza e conclusiva traccia misteriosa del DVD game di oggi. Ne abbiamo ascoltate due, adesso andiamo ad ascoltare la terza, sentiamo. Le riviste che avevo erano noiose. Mi sembra che avessi una di quelle riviste per donne che toccano molti argomenti che riguardano il sesso. E io pensai, oddio, ecco che mi ci vorrebbe qualcosa che sia in grado di distogliermi da questo viaggio. E così io, mi metto a pensare e lo faccio sull'aereo, tra due persone. Il film che ha lanciato sostanzialmente la carriera di un grande regista hollywoodiano che poi ha firmato altri film importanti. La Rosa Purpurea @radio24.it. Come sempre vi chiedo anche di inserire il vostro indirizzo di posta ordinaria per poter ricevere, nel caso siate i più bravi e più veloci, del sabato e della domenica, il DVD di questo film. A questo punto noi però facciamo il consueto salto indietro di 7 giorni. Andiamo a riascoltare una traccia del film che avevamo seminato, sparpagliato durante la nostra trasmissione 7 giorni fa. Quando è morta? Vostro fratello nella sua lettera ha tralasciato di precisarmelo. È morta circa 3 mesi fa. 3 mesi? Perché non mi avete avvertito prima? Mi dispiace. E come è morta? Non sono al corrente dei particolari, signor Barnard. Vedete, questa non è più casa mia. Io ero andata via parecchi mesi prima che Nicholas sposasse vostra sorella. Volete farmi credere di non sapere come... In nome del cielo, che succede? E questo era Il pozzo e il pendolo di Roger Corman, tratto dal racconto di Edgar Allan Poe. Devo subito dire che siete stati sorprendenti, perché noi pensavamo di aver fatto un game, e forse era così, un po' di nicchia, non un film certo delle ultime stagioni, un film che non passa spesso in televisione, e invece avete partecipato in tanti, e soprattutto in tanti avete indovinato, il che vuol dire che il pubblico della Rosa Purpura, insomma, un po' di preparazione anche su questo cinema ce l'ha. Qui stiamo parlando di un film che esce per Teodora con la collana curata da Vieri Razzini, Il piacere del cinema, un capolavoro di horror gotico, come avevamo anche cercato di dire 7 giorni fa per aiutarvi, firmato Roger Corman, il grande maestro del cinema di serie B, come viene detto, del cinema di genere, con la sua Factory, protagonisti due icone del genere come Vincent Price e Barbara Steele, film presentato in versione restaurata e rimasterizzata, quindi, come dire, lo si vede al massimo delle potenzialità del mezzo di oggi. Ovviamente è sempre un film degli anni 50, una vicenda ambientata nella Spagna del 500 che ha per protagonista un nobiluomo ossessionato dall'idea di aver sepolto viva la moglie adultera. Quando scopre che la realtà è molto diversa dalle apparenze, scogita una vendetta di raffinata crudeltà e spietatezza. Questo è Il pozzo e il pendolo, ricordiamo l'audio in versione italiana e in versione originale con sottotitoli in italiano, e fra gli extra vogliamo segnalare il prologo televisivo, abbastanza difficile da trovare, direi inedito, e il trailer originale dell'epoca. Il pozzo e il pendolo quindi era il DVD game della scorsa settimana. Hanno vinto Alessandra Colombo di Pombia in provincia di Novara e Marco Buttafuoco di Parma, e riceveranno il DVD di questo film. A questo punto noi invece ci buttiamo sulle recensioni di questa settimana e siamo già in collegamento con Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto a chi ci sta ascoltando. Allora, cominciamo subito con la prima proposta. Si tratta di Crossing Over. Sentiamo la clip. Perché se puoi risolvermi questo problema... Sapresti come ringraziarmi? Mm-hmm. Per 2 settimane. Per una green card? 6 mesi, bambina. No, non credo proprio. 1 mese. 3 mesi. 2 mesi. E voglio vedere prima l'approvazione. D'accordo? Puoi tenerti tutti i documenti, ma io voglio vedere che è tutto vero. Andata. Però sei a disposizione da domani. Io ti chiamo e tu porti il culo a qualunque indirizzo io ti dia. Distribuisce 01 questo film che racconta una dura realtà, quella delle illusioni, delle speranze degli immigrati che giungono negli Stati Uniti, persone disposte a tutto pur di ottenere i documenti e regolarizzare la propria posizione in America. Numerose storie si intrecciano in un dramma dal passaggio clandestino della frontiera, documenti falsificati, lo sfruttamento del lavoro nero, asilo politico e, come avete ascoltato, la prostituzione, lo scontro naturalmente tra culture e razze. C'è un Harrison Ford interessante, uno dei personaggi centrali della storia, agente dell'immigrazione che lavora con passione al compito di far rispettare le leggi. Talvolta la sua melodrammaticità tende a sbilanciare un racconto che offre comunque una certa intensità e coinvolgimento. La qualità del DVD è ottima, c'è una doppia traccia Dolby Digital multicanale in italiano e in inglese, purtroppo non sono disponibili extra. E dal cinema di impegno civile americano a un capolavoro del cinema recente, Forrest Gump, che trova nuova vita in Blu-ray. Ascoltiamo la clip. Per la 4ª volta nel suo viaggio attraverso l'America, Forrest Gump, un giardiniere di Greenbow in Alabama, oggi sta per attraversare di nuovo il fiume Mississippi. Che mi venga un colpo, Forrest. Perché corre? Lo fa per le pace nel mondo. Lo fa per i senza tetto. Corre per i diritti delle donne. Oppure per l'ambiente. O per gli animali. Non riuscivano a credere che uno poteva correre tanto senza una ragione particolare. Ma perché fa questo? Avevo voglia di correre. Da parte Paramount, edizione Blu-ray, alta definizione, addirittura due dischi per questo film meraviglioso tratto dall'omonimo romanzo di Winston Groom dell'86. Forrest Gump tratta della straordinaria vita di un uomo ordinario col quoziente intellettivo di poco inferiore alla media. Attraverso la sua esistenza scorrono 30 anni di storia americana, dalla metà degli anni 50 fino agli 80. Conoscerà Elvis Presley, John Kennedy, John Lennon e Richard Nixon tra gli altri. Andrà addirittura in guerra in Vietnam, diventerà una stella del football e del tennis a tavolo, contribuendo addirittura alla distensione tra Stati Uniti e Cina. Dramma intenso, capolavoro di Zemeckis, 6 premi Oscar, in alta definizione arriva con ricchissimi extra, ci sono tanti approfondimenti sulla lavorazione, tra cui ovviamente gli effetti visivi. Segnalo su tutti le 45 canzoni che compongono la colonna sonora, legate al periodo tra i 50 e gli 80, si possono scoprire tramite appositi approfondimenti da parte di un importante critico musicale americano. E allora andiamo avanti con un film invece dell'ultima stagione, è stata una delle rivelazioni della scorsa stagione cinematografica, forse il film comico più azzeccato, sicuramente quello che ha fatto ridere di più, Notte da Leoni, ascoltiamo la clip. Non mi vuoi più bene? Non mi abbracci più? Ah! No, no, non è questo, Eddie, è solo che non riusciamo a ricordare che cosa abbiamo fatto qui ieri notte. Sì, c'è stato un matrimonio, fate matrimoni qui. Vi piace sfracellarmi le palle? Ok, è chiaro che siamo stati qui, ma stiamo cercando Doug, ti ricordi di lui? Sì, il piccoletto, tipo scimmia. Mm-hmm. Sì, l'hai visto? Ma certo! E ci puoi raccontare qualcosa di quello che abbiamo fatto qui ieri notte? Non ricordate niente? Eddie Warner, questa commedia strepitosa è la storia per l'addio al celibato a due giorni del matrimonio. Doug fa rotta verso Las Vegas con gli amici Phil, Stu e il futuro cognato Alan. Viaggiano su una Mercedes Vintage Cabrio. A risveglio da questa notte brava, nessuno ricorda cosa sia accaduto. Ci sono corpi doloranti, un blackout mentale, un dente mancante, occhi pesti e questa devastazione all'interno della suite dell'albergo, ospitata tra gli altri da una gallina, una tigre, un neonato, ma nel bagagliaio dell'auto c'è addirittura un cinese nudo molto incavolato. E allora, sulle tracce dello sposo scomparso, il gruppo metterà insieme il puzzle delle Follie Notturne, inclusa un'improvvisata alla villa di Mike Tyson e il furto di un'auto della polizia. Incredibile commedia di portata epocale, arriva in DVD ma anche in Blu-ray grazie a Warner. La qualità è eccellente, assolutamente, anche per quanto riguarda la parte audio. Per il Blu-ray è disponibile la visione cinematografica, ma anche quella non censurata, con 8 minuti di immagini inedite. Soprattutto per gli extra, il commento immagine nell'immagine in compagnia del regista assieme ai tre degli attori principali. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. A presto, un saluto. E con Claudio Pofi, con le segnalazioni in DVD, davvero tante interessanti, avete visto anche molto varie. Noi chiudiamo questa ultima puntata, diciamo così, della Rosa Purpurea prenatalizia, ma vi do l'appuntamento per il giorno di Natale, perché ci sentiremo intorno alle 18 per una mezz'oretta per riepilogare un po' le proposte del Natale al cinema, e poi per la puntata ordinaria, fra virgolette, ma la Rosa Purpurea non è mai ordinaria, il 26, giorno di Santo Stefano, come sempre, il sabato alle 18 e la domenica in replica alle 9. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.